porgerò un ginocchio da te, l'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per bene tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te.